661. Budino di patate. La patata è il tubero di una pianta della famiglia delle Solanacee, originaria dell'America meridionale, donde fu introdotta in Europa verso la fine del secolo XVI, ma non si cominciò a coltivarla in grande che al principio del XVIII, a motivo dell'ostinatissima opposizione del volgo, sempre alieno alle novità. A poco per volta venne poi bene accetta nel disco del povero, come alla mensa del ricco, però che, buona al gusto e saziante la fame, essa si presta ad essere cucinata in tante mai maniere. Però ha lo stesso difetto del riso, di essere cioè un alimento che ingrassa e gonfia lo stomaco, ma nutre pochissimo. Sono cibi che non danno albumina né grasso fosforato al cervello, né fibrina ai muscoli. Patate grosse farinacee, grammi 700, zucchero grammi 150, burro grammi 40, farina grammi 20, latte decilitri 2, uova numero 6, una pressa di sale, odore di cannella o di scorza di limone. Cuocete le patate nell'acqua o al vapore, sbucciatele e passatele calde dall'ostaccio. Rimettetele al fuoco col burro, la farina e il latte versato a poco per volta, lavorandole bene col mestolo. Indi aggiungete lo zucchero, il sale e l'odore e lasciatele stare tanto che si incorporino bene insieme tutte queste cose. Ritirate dal fuoco, quando saranno tiepide o ghiacce, gettateci rossi e poi le chiare montate. Cuocetelo come tutti gli altri budini, cioè nel fornello o nel forno, e servitelo caldo.